Capitolo 24. Il romanzo vero del capitano Jim. Ho un piccolo abbozzo di idea che potrebbe trasformarsi in una meravigliosa farfalla, disse Anna Gilbert una volta rincasata. Era ritornato prima del previsto e stava facendo onore alla torta di fragole di Susan. Susan gli aleggiava attorno come uno spirito tutelare, truce ma benevolo, soddisfatta di vederlo mangiare tanto volentieri. E qual è la tua idea? Chiese. Per ora non ti dirò niente, prima voglio vedere se riesco a realizzare il mio progetto. Che tipo è Ford? Oh, molto simpatico e di bell'aspetto. Ha orecchie bellissime, dottore caro, intervenne Susan con entusiasmo. Ha circa 30 o 35 anni, mi sembra, e medita di scrivere un romanzo. Ha una voce gradevole, un sorriso che incanta e sa vestirsi. La vita non deve essere stata generosa con lui, però. Owen Ford. Venne la sera seguente con un biglietto per Anna da parte di Leslie. Trascorsero l'ora del tramonto in giardino, poi fecero un giro sulla baia al chiaro di luna con la barchetta che Gilbert aveva allestito per le gite estive. Si trovarono subito benissimo con Owen, come se lo conoscessero da sempre. Proprio questa è la caratteristica che distingue i confratelli della compagnia di Giuseppe. È carino quanto le sue orecchie, dottora cara, commentò Susan quando fu andato via. Aveva detto a Susan che la sua torta di fragole non aveva l'eguale e si era conquistato per sempre quel cuore sensibile ai complimenti. Ha dei bei modi, riflette Susan sgomberando il tavolo della cena. È davvero strano che non sia sposato. A un uomo come quello basterebbe parlare per avere chi vuole. Beh, forse è come me e non ha ancora incontrato la persona giusta. Mentre lavava i piatti, Susan si lasciò andare a riflessioni decisamente romantiche. 2 sere dopo, Anna accompagnò Owen Ford al promontorio di Four Winds per presentarlo al capitano Jim. I campi di trifoglio lungo la costa stavano impallidendo sotto il fiato del vento dell'ovest e al faro il capitano Jim aveva uno stupendo tramonto. Era stato dall'altra parte della baia e stava rientrando proprio allora. Sono dovuto andare a dire a Harry Pollock che sta morendo. Gli altri avevano tutti paura di dirglielo. Si aspettavano che la prendesse male perché è attaccatissimo alla vita e aveva fatto un'infinità di progetti per l'autunno. La moglie ha pensato che bisognava dirglielo e ha chiesto a me di farlo. Harry e io siamo vecchi amici, abbiamo viaggiato insieme per anni sul Golfo Grigio. Beh, sono andato, mi sono seduto al suo capezzale e gliel'ho detto chiaro e tondo perché se una cosa va detta tanto vale dirla subito. Gli ho detto, caro amico, a mio vedere questa volta devi proprio levare l'ancora. Dentro di me tremavo, perché è terribile dover dire a un uomo che non lo sa, che sta morendo. Ma senta un po', Madame Blythe, Harry mi guarda con i suoi occhi neri e vivi, nella faccia raggrinzita, e mi fa, Jim Boyd, se vuoi darmi delle informazioni, dimmi qualcosa che non so. Questo è da una settimana che lo so. Per la sorpresa sono rimasto senza parole e lui, Harry, si è messo a ridacchiare. Bello vederti venire qui, dice, con una faccia da funerale e sederti con le mani intrecciate sulla pancia per darmi una notizia stantia come quella. Roba da far ridere i polli, Jim Boyd. Chi te l'ha detto? Faccio io, come uno stupido. Nessuno, dice lui. Martedì notte fa, una settimana che stavo qui a letto sveglio, l'ho saputo, così, da un momento all'altro. L'avevo sospettato prima. Ma allora l'ho saputo, mi sono fatto forza per mia moglie e avrei voluto vedere finito quel granaio perché Eben non sarà mai capace. Comunque, ora che ti sei tolto il peso dalla coscienza, sorridi e dimmi qualcosa di interessante. Beh, ecco qua, avevamo tutti paura di dirglielo e lui lo sapeva da un pezzo. Strano come la natura ci soccorre a tempo debito, ci fa sapere quel che dobbiamo sapere, Madame Blythe. Le ho mai raccontato di quella volta che Harry si è infilato un amo nel naso? No. Beh, ne abbiamo riso ancora oggi insieme. È successo quasi 30 anni fa. Io, lui e molti altri un giorno eravamo a pesca di sgombri. Era una gran giornata. Mai visto un banco di sgombri così nel golfo. E nella confusione generale, Harry fu preso dalla frenesia e si incastrò un amo in una narice. Ecco qui. C'era il dente uncinato a un capo. E un piombino grande all'altro. Così non si poteva tirare fuori. Volevamo portarlo subito a riva, ma Harry puntò i piedi, disse che era da idioti mollare un banco così e che piuttosto rischiava il tetano. Poi continuò a pescare senza mai fermarsi un attimo e lamentandosi a tratti. Alla fine il banco passò e noi tornammo carichi. Presi una lima e incominciai a limare l'amo. Cercai di essere delicato quanto era possibile, ma avrebbe dovuto sentire Harry. No, meglio di no, non erano cose da signore. Harry non era tipo da bestemmiare, ma ai suoi tempi, navigando, aveva sentito qualche frasetta. Allora le ripescò dalla mente, me le tirò tutte addosso. Infine affermò che era uno spietato e che lui non ce la faceva più. Così chiedemmo un passaggio e lo accompagnai da un dottore a Charlottetown. Non c'erano medici più vicini a quei tempi e ci facemmo 35 miglia, lui sempre con quel benedetto amo appeso al naso. Quando arrivammo laggiù, il vecchio dottor Crabb prese una lima e si mise a limare l'amo, proprio come avevo cercato di fare io, solo che non si preoccupò affatto di essere delicato. La visita al vecchio amico aveva rinverdito molti ricordi nel capitano Jim, che ora era in vena di reminiscenze. Oggi Harry mi chiedeva se ricordavo quando il vecchio padre Cinicui aveva benedetto la barca di Alexander McAllister. Un'altra storia strana e vera, come vero Dio. C'ero anch'io sulla barca. Uscimmo lui e io una mattina all'alba con la barca di Alexander McAllister e poi sulla barca c'era anche un ragazzo francese, cattolico naturalmente. Il vecchio padre Cinicui si era fatto protestante e i cattolici non lo vedevano tanto di buon occhio. Beh, restammo nel golfo sotto il sole cocente fino a mezzogiorno e non abboccò nemmeno un pesce. Quando tornammo a riva, padre Cinicui doveva andar via, così disse con quel suo tono gentile: «Mi dispiace molto di non poter uscire in mare con lei questo pomeriggio, signor McAllister, ma le lascio la mia benedizione. Prendete 1000 pesci questo pomeriggio». Beh, non ne prendemmo 1000, ma esattamente 999. La pesca migliore dell'estate per una barca piccola sul tratto di costa settentrionale. Curiosa coincidenza, vero? Alexander McAllister allora disse a Andrew Peters: «Beh, e ora che ne pensi di padre Cinicui?» «Diavolo d'un uomo», borbottò Andrew. «Sa ancora far funzionare una benedizione? Cielo, che risate si è fatto oggi il mio Harry!» «Sa chi è il signor Ford, capitano Jim?» chiese Anna, vedendo che la fontana dei ricordi del capitano Jim si era momentaneamente essiccata. «Indovini un po'.» Il capitano Jim scosse la testa. «Ah, non sono mai stato bravo a indovinare, Madame Blythe, eppure quando sono entrato ho pensato dove li ho già visti quegli occhi. Di averli già visti sono sicuro.» «Pensi a un mattino di settembre di tanti anni fa», disse Anna dolcemente. «Pensi a una nave che entra in porto, una nave attesa a lungo e poi data per dispersa. Pensi al giorno dell'arrivo della Royal William e a quando vide per la prima volta la sposa del maestro.» Il capitano Jim balzò in piedi. «Sono gli occhi di Percy Selwyn!» gridò. «Lei non può essere il figlio. Deve essere suo nipote, sì. Sono il figlio di Alice Selwyn.» Il capitano Jim si precipitò a stringere ancora una volta la mano di Owen Ford. «Il figlio di Alice Selwyn! Mio Dio, lei è il benvenuto! Molte volte mi sono chiesto dove vivessero i discendenti del maestro. Sapevo che qui sull'isola non ce n'erano. Alice, la prima a nascere nella casetta. Nessun bambino è mai stato accolto con tanta gioia. Quante volte l'ho fatta ballare sulle ginocchia. Fu staccandosi dalle mie gambe che incominciò a camminare da sola. Mi sembra di vedere ancora adesso sua madre che la guarda, e sono passati quasi 60 anni. È viva? No, morì quando ero ragazzo. Oh, non mi sembra giusto di essere vivo per ascoltare certe cose», disse il capitano Jim con un sospiro. «Ma sono contentissima di vederla. Per un po' sono tornato indietro negli anni. Lei non può sapere che regalo è. La nostra Madame Blythe conosce il trucco e me lo fa spesso.» Il capitano Jim si emozionò ancora di più quando scoprì che Owen Ford era, per dirla come lui, un vero scrittore. Incominciò a considerarlo un essere superiore. Il capitano Jim sapeva che Anna scriveva, ma non l'aveva mai presa sul serio sotto questo aspetto. Il capitano Jim giudicava le donne creature meravigliose che avevano il diritto di ottenere il voto o qualsiasi altra cosa volessero, ma non credeva che sapessero scrivere. Basta vedere Un amore folle, recriminava. L'ha scritto una donna e guarda un po', 103 capitoli, quando si poteva dire tutto in 10 capitoli. Una donna che scrive non sa mai quando deve fermarsi. Ecco il guaio. Per scrivere bene è essenziale sapere quando fermarsi. Il signor Ford desidera sentire qualcuno dei suoi racconti, capitano Jim, disse Anna. Gli parli del capitano che impazzì e si mise in testa di essere l'olandese volante. Era il pezzo forte del capitano Jim. Vi erano mischiati particolari raccapriccianti, e anche se Anna l'aveva ascoltato parecchie volte, rise di cuore e rabbrividì al pari di Owen Ford. Seguirono altri racconti, poiché il capitano Jim aveva trovato l'uditore ideale. Narrò come il suo veliero era stato speronato da un vapore, come aveva subito l'assalto dei pirati della Malesia, come la sua nave avesse preso fuoco, come aveva aiutato un prigioniero politico a fuggire da una repubblica dell'Africa del Sud, come un autunno aveva fatto naufragio alla Maddalena e vi era rimasto tutto l'inverno, come una tigre era uscita dalla gabbia a bordo della nave, come il suo equipaggio si era ammutinato abbandonandolo su un'isola deserta. Questi e molti altri episodi tragici, umoristici o grotteschi, raccontò il capitano Jim. Il mistero del mare, il fascino di terre lontane, il richiamo dell'avventura, il riso del mondo, tutto questo sentirono e percepirono i suoi ascoltatori. Owen Ford ascoltava con il mento poggiato sulla mano e il secondo beatamente abbandonato sulle ginocchia, senza staccare lo sguardo degli occhi luminosi dal volto rugoso ed espressivo del capitano Jim. Vorrebbe mostrare al signor Ford il romanzo vero della sua vita, capitano Jim? Chiese Anna quando infine il capitano Jim annunciò che l'ora dell'avventura era finita. Oh, non vorrà perdere tempo con quella piccolezza. Si schermì il capitano Jim, che moriva dalla voglia di farglielo vedere. Oh, sarebbe invece un vero piacere, capitano Boyd, disse Owen. Se è all'altezza dei suoi racconti, vale certo la pena di vederlo. Con finta ritrosia, il capitano Jim stanò il libro dal vecchio baule e lo porse a Owen. Probabile che si stancherà presto di lottare con la mia scrittura. Non sono molto istruito, sa, commentò con indifferenza. Ho scritto quelle cosucce per far divertire il mio nipotino Joe. Mi chiede sempre delle storie. È venuto qui ieri e mi ha detto con tono di rimprovero, mentre scaricavo dalla barca un merluzzo di 10 chili. Zio Jim, ma il merluzzo non è un animale stupido? Vede, con lui mi sono sempre raccomandato di essere molto delicato verso gli animali stupidi e di non far loro del male. Mi sono tolto dai pasticci dicendo che il merluzzo è stupido, ma non è un animale. Ma Gio non era convinto, e nemmeno io. Bisogna stare molto attenti quando si parla con i piccoli. Ti leggono dentro. Parlando, il capitano Jim osservava con la coda dell'occhio Owen Ford, che scorreva il suo romanzo. Avendo osservato che l'ospite era intento alla lettura, si voltò con un sorriso verso la credenza e si accinse a preparare il tè. Owen Ford si staccò dal libro con la ritrosia dell'avaro che si separa dall'oro. Beve rapidamente una tazza di tè e poi si immerse di nuovo nella lettura delle vecchie pagine. Oh, può portarsi il libretto a casa se crede, disse il capitano Jim, come se quel libretto non fosse per lui un prezioso tesoro. Devo scendere a tirare in secco la barca, si sta levando il vento. Ha notato il cielo stasera? Quando i cirri e il cielo a pecorelle, puoi vedere, i marinai allora corrono ad ammainare le vele. Owen Ford accettò volentieri la proposta. Al ritorno, Anna gli raccontò la storia della scomparsa di Margaret. Quel vecchio capitano è davvero straordinario, disse Owen. Diamine, ha avuto più avventure lui in una settimana che molti di noi in tutta la vita. Crede che i suoi racconti siano veritieri? Oh, certamente. Sono sicura che il capitano Jim non direbbe mai bugie. E poi la gente di qui dice che risponde tutto a verità. C'era molta gente di mare fino a poco tempo fa che confermava i suoi racconti. È uno degli ultimi capitani all'antica dell'isola del principe Edoardo. Ormai sono una razza in via di estinzione. Capitolo 25. La stesura del romanzo. La mattina seguente Owen Ford si presentò agitatissimo alla casetta. Signora Blythe, è un libro meraviglioso, davvero meraviglioso. Se potessi usarlo come materiale per un libro, sono certo che ne verrebbe fuori il romanzo dell'anno. Pensa che il capitano Jim me lo permetterebbe? Permetterglielo, ma se non aspetta altro, esclamò Anna. Confesso che avevo proprio in mente questo quando l'ho portata al faro ieri sera. Da sempre il capitano Jim sogna che qualcuno scriva il romanzo della sua vita. Vuol venire al faro con me questa sera, signora Blythe? Io stesso gli parlerò del libro, ma voglio che lei gli dica che mi ha raccontato la storia di Margaret e che gli chieda se mi permette di usarla come filo conduttore su cui innestare le altre storie per ottenere un insieme armonico. Il capitano Jim si dimostrò entusiasta quando Owen Ford gli comunicò il suo piano. Infine, il sogno che nutriva da tanto tempo si sarebbe realizzato e il romanzo della sua vita sarebbe diventato patrimonio collettivo. Era anche contento che vi venisse inserita la storia della scomparsa di Margaret. Servirà a non fare dimenticare il suo nome, disse con una punta di malinconia. È per questo che voglio metterla. Collaboreremo, esclamò Owen con fervore. Lei ci metterà l'anima e io il corpo. Oh, insieme scriveremo un libro famoso, capitano Jim, e incominceremo subito a lavorare. Pensare che il mio libro verrà scritto dal nipote del maestro, commentò il capitano Jim. Ragazzo, suo nonno era il mio migliore amico. Per me non c'era nessuno come lui. Ora capisco perché ho dovuto aspettare tanto. Per scriverlo ci voleva l'uomo giusto. Lei appartiene a questo posto, ha in sé l'anima di questa costa selvaggia ed è l'unico che può scriverlo. Decisero che la stanzina accanto al salotto del faro sarebbe stata utilizzata da Owen Ford come studio. Era necessario che il capitano Jim fosse a portata di mano per consultazione su particolari della navigazione e costumi della zona di cui Owen era all'oscuro. Si mise al lavoro la mattina seguente con impegno totale. Quanto al capitano Jim, quell'estate fu un uomo felice. Considerava la stanzetta dove lavorava Owen un santuario. Owen discuteva ogni dettaglio con il capitano Jim, ma si rifiutava di fargli vedere il manoscritto. Aspetti quando sarà pubblicato, diceva, allora lo vedrà tutto insieme e nella forma migliore. Pescò nei tesori del romanzo del capitano Jim e se ne servì liberamente. Meditò a lungo sulla figura di Margaret, finché non divenne reale ai suoi occhi e riacquistò vita sulla pagina scritta. Man mano che procedeva con il lavoro, il libro si impadronì di lui, costringendolo a un ritmo di attività forsennato. Permise a Dan e a Leslie di leggere il manoscritto e di criticarlo. Il capitolo conclusivo del romanzo, che i critici in seguito avrebbero giudicato idilliaco, fu modellato secondo il suggerimento di Leslie. Anna non stava nella pelle, felice del successo avuto dalla sua idea. Appena ho visto Owen Ford, ho capito che era l'uomo adatto, disse a Gilbert. Dal suo volto trasparivano senso dell'umorismo, intensità di sentimenti. Insieme all'arte espressiva erano i presupposti necessari alla stesura di un libro del genere. Come direbbe la signora Rachel, era predestinato per questa parte. Owen Ford scriveva al mattino. Di solito trascorreva il pomeriggio all'aria aperta con i Blythe. Anche Leslie andava spesso con loro perché di frequente il capitano Jim si prendeva cura di Dick per lasciarla libera. Andavano in barca sulla baia e risalivano i tre piccoli fiumi che si gettavano in essa, arrostivano molluschi sulla barra e cozze sugli scogli. Raccoglievano fragole sulle dune di sabbia, andavano a pesca di merluzzi con il capitano Jim, cacciavano, perlomeno gli uomini, pivieri nei campi vicini alla costa. La sera vagavano ai raggi d'oro della luna nei bassi campi costieri fioriti di margherite o restavano nel salotto della casetta, dove spesso il fuoco era acceso a contrastare il rigore della brezza marina. E parlavano dei mille argomenti che possono accomunare persone giovani, felici, intelligenti e piene di entusiasmo. Dal giorno della confessione fatta ad Anna, Leslie era completamente cambiata. In lei non c'era più traccia della freddezza e del ritegno di un tempo, né ombra dell'antico risentimento. La giovinezza che era mancata tornava ora a lei con la maturità dell'età adulta. Si schiudeva come un fiammeggiante fiore profumato. Nessuno più di lei era pronto a ridere e a scherzare durante le veglie serali di quell'estate magica. Quando Leslie non poteva unirsi a loro, tutti avvertivano la mancanza di un elemento vivificante nella compagnia. La sua bellezza era esaltata dal risveglio interiore, come una lampada dalla luce rosea che risplenda dietro lo schermo di un perfetto vaso di alabastro. C'erano momenti in cui tanto splendore offuscava quasi la vista, e la Margaret del libro di Owen Ford, pur avendo i morbidi capelli castani e il viso da folletto della ragazza scomparsa tanti anni prima, nel giaciglio in cui dorme la mitica Atlantide, rispecchiava la personalità rivelata da Leslie Moore in quei giorni felici. E comunque fu un'estate indimenticabile, una di quelle estati che arrivano raramente nella vita, ma lasciano dietro di sé una ricca eredità di bei ricordi. Fu una di quelle estati che, con una combinazione fortunata di tempo splendido, amici splendidi e splendide attività, raggiunsero la perfezione per quanto è possibile su questa terra. Era troppo bello per durare, si disse Anna con un sospiro, quando un pungente venticello settembrino e una tonalità di celeste più cupo sulle acque del golfo le annunciarono che l'autunno era alle porte. Quella sera Owen Ford disse che aveva finito il libro e che la sua vacanza era conclusa. Devo ancora lavorarci molto, rivederlo, sfrondarlo e limarlo, disse, ma il più è fatto. Ho scritto l'ultima frase questa mattina. Se riuscirò a trovare un editore, forse uscirà l'estate prossima o di qui a un anno. Owen era quasi certo di trovare un editore. Sapeva di aver scritto un grande libro, un libro destinato a un successo straordinario, un libro destinato a durare nel tempo. Sapeva che gli avrebbe portato celebrità e ricchezza, ma scritta l'ultima riga, era rimasto a lungo con il capochino sul manoscritto e non aveva pensato all'opera appena compiuta.